Devolti può andare. Sta già andando, va bene. Allora, voi valuterete che non... No. Cominciamo in un altro modo. Allora, mi rendo conto che è spiazzante fare dei bilanci dopo tre lezioni in corso, però insomma, qualcuno mi ha chiesto il programma, non mi ricordo più chi, e allora io il programma ce l'ho sul computer, ma insomma, però obiettivamente il programma che ho scritto 2 anni fa, quest'anno conta poco, nel senso che 2 anni fa avevo concepito un corso insomma, basato prevalentemente su un asse storico, boh, storico, però non lo so, critico, non so come dire, che recuperasse una serie di parametri concettuali rilevanti nel corso dell'esposizione storica. Allora, quest'anno sto cercando di fare in maniera, diciamo, diversa, cioè do per scontato che ognuno di voi si studi o si legga qualche cosa sulla storia dei media tra 800 e 900. Vi ho dato qualche idea nelle lezioni scorse, però preferirei quest'anno fare un esame, cioè cercare di prendere in esame diciamo così, le categorie concettuali più insomma, rilevanti della vicenda dei mass media. La vicenda dei mass media è relativamente semplice perché è relativamente recente, quindi sono meno di 2 secoli di vita nello sviluppo della cultura della città occidentali, e però hanno già probabilmente dato luogo a uno o forse due, chiamiamoli, cambi di paradigma. Allora, il problema era cercare di focalizzare quali sono questi cambi di paradigmi. È ovvio che sono degli diciamo, eventi storici, però noi li valutiamo principalmente per la loro rilevanza concettuale, non tanto per lo sviluppo storico. E allora, nelle 2 lezioni precedenti ho cominciato a cercare di introdurre uno dei cambi di paradigma verificatosi all'incirca insomma, nel corso del XIX secolo, e cioè l'introduzione dell'immagine come elemento fondamentale all'interno dei mezzi di comunicazione, tentando di capire che cosa sia, diciamo, successo, cioè stiamo cercando di capire se ci sia stato davvero un rovesciamento delle priorità tra parola e immagine nel corso della formazione, nella fase vera e propria di formazione dei mass media. Non che precedentemente non si potesse parlare di mezzi di comunicazione di massa, però i mezzi di comunicazione di massa nascono un secolo prima all'incirca, cioè nella seconda metà del Settecento, soprattutto principalmente insomma, come strumenti di comunicazione di testi, quindi di produzioni verbali. Da questo punto di vista l'evento rilevante è l'affiancarsi al libro, che è uno strumento già di 2 secoli, che ha già un paio di secoli di vita nel Settecento, l'affiancarsi al libro di uno strumento di comunicazione che è il giornale, il periodico, cioè un oggetto stampato che esce periodicamente, non una volta tanto come il libro. E quindi è collegato all'attualità, al racconto di eventi, insomma, quotidiani. Ora, sicuramente c'è un cambiamento nel momento in cui la parola scritta passa dall'essere uno strumento di comunicazione di idee o di storie più o meno intemporali, cioè non esattamente situate dentro un'epoca dal punto di vista della diegesi, dal punto di vista della decodificazione del, diciamo, lettore. Allora, per spiegarlo in altri termini, il libro come strumento di narrazioni, quindi i romanzi, o il libro come strumento di esposizione ed elaborazione di idee, il libro inteso in questi due sensi è certamente un fenomeno rilevante perché cambia lo strumento dal libro manoscritto al libro stampato. Quindi il fatto che la circolazione delle storie e dei mini sistemi concettuali si avvalga di uno strumento a stampa, quindi con una maggiore disponibilità, con una maggiore tiratura, quindi con la possibilità di raggiungere un numero di persone più o meno nello stesso tempo o in un tempo relativamente breve, un anno, due, tre, molto maggiore di quanto potesse fare il libro manoscritto, no, il testo manoscritto, questo sicuramente è importante. Però, a mio parere, non è così importante come la possibilità di accoppiare questo testo con delle immagini, come dire, insomma, significative, cioè che non siano semplicemente di commento al testo. Uno dice, ma l'immagine c'è sempre stata, anzi addirittura una riproduzione meccanica delle immagini precede la riproduzione meccanica del testo, perché la xilografia è una tecnica che matura già nel tardo medioevo, insomma, dopo il 1100, e per cui la miniatura, intanto, vuol dire, la miniatura è già presente nel libro manoscritto. Ora, noi oggi possiamo, il nostro problema è che noi dobbiamo sempre, quando pensiamo a un qualunque fenomeno storico o di evento storico, abbiamo una grossa difficoltà, ed è giusto che sia così, a scindere, come dire, immaginarci come i contemporanei di quel certo evento culturale lo considerassero. Allora, ad esempio, noi oggi abbiamo tutta la buona e la bella, diciamo, società letteraria internazionale che stravede per le miniature, quindi c'ha il criticismo, quindi fanno degli studi filologici sugli autori di miniature paragonabili a quelli che fanno nella storia della pittura, e va benissimo. E quindi probabilmente diciamo, ma già allora c'erano le miniature, era così importante l'immagine anche nel libro manoscritto. Non è vero niente. Il modo di apprezzare, di consumare, di leggere un libro miniato per il lettore medievale è totalmente diverso da quello che abbiamo noi oggi. Il lettore medievale non ci vedeva, cioè, c'era come dire, miniatura, boh, insomma, quel tipo di immagine era obiettivamente soltanto di supporto al testo da un certo punto di vista, non, diciamo, non aveva, la miniatura non ha una autonomia semiotica così forte come ha per noi oggi l'immagine, ma il fatto è che noi andiamo a guardare, noi in genere non andiamo dare nessun codice manoscritto perché per andare da un codice manoscritto ci vogliono un sacco di autorizzazioni e di... Adesso guardiamo le riproduzioni dei codici manoscritti che fanno parte della nostra cultura di massa e ci sembra, ma noi le guardiamo con l'occhio nostro, moderno o ipermoderno o postmoderno. E quindi le guardiamo al termine di un'epoca in cui già l'immagine si è autonomizzata, ma all'epoca l'immagine non era così autonomizzata. Il libro era molto più importante per il testo che non per l'immagine. Comunque sia, c'è una differenza tra l'immagine del libro illustrato e diciamo, l'immagine in un quotidiano, che è ovvia, questo anche oggi vale, cioè anche oggi sono i libri illustrati, che sono prevalentemente libri dedicati alla fascia dell'infanzia e credo che da questo punto di vista, seppure in maniera diversa, la mia esperienza non sia tanto diversa dalla vostra, quindi pure voi avrete nella vostra infanzia uno o più libri illustrati che vi ricordate, ad esempio uno di questi che mi ricordo io, quando ero piccolo io, era mettiamo, faccio questo esempio per dire Robinson Crusoe. Allora, io sono un bambino, mi leggo, ho 8 anni, 9 anni, quanti anni avevo, non me lo ricordo, mi leggo Robinson Crusoe ed è un libro illustrato con le immagini di Robinson Crusoe, io mi guardo Crusoe e dico, ah, guarda qua, eccetera, e l'immagine in qualche maniera mi aiuta anzi, mi aiuta, cioè lo fa al posto mio, visualizza per me, il personaggio di cui si parla, so, per esempio Don Chisciotte, perché faccio un altro esempio, Don Chisciotte è un libro, beh, proprio concluso, anche poi l'ho riletto da camion, diciamo Don Chisciotte è quello più, Don Chisciotte l'ho riletto da grande sulla scorta di un sacco di studi, eccetera, però avendolo letto la prima volta quando ero bambino, con le illustrazioni, con Don Chisciotte magro, con la sua lancia, ronzinante, tanto pancia grasso, eccetera, e uno non si toglie più da quel, cioè, insomma, gli rimane impressa. Però capiamo tutti che in un libro illustrato, leggo Robinson Crusoe o leggo Don Chisciotte illustrati, l'immagine è un supporto al testo, quello che conta è quello che c'è scritto nel... Porta la memoria. Sì, c'è la memoria e mi... Da un certo punto di vista, per certi versi, uno, cioè, poi da grande, preferirebbe non aver letto i libri illustrati, perché da un certo punto di vista ti preimpostano poi la testa, cioè io siccome ho letto quasi, cioè, quasi la gran parte delle cose fondamentali, poi le ho lette quando ero piccolo, i miei libri illustrati, e uno gli rimane uno, insomma, stereotipo in testa. Però, come dire... Non è che l'immagine in quel tipo di contesto non colpisca, colpisce, però è relativa, cioè come dire, la cosa principale è quello che è scritto nel testo, no? Che uno dice bene, viene raccontato parallelamente in due modi diversi, con lo scritto e con l'immagine, però l'immagine è sempre, come dire, è sempre insomma relegata al testo. Colleghiamo con quello che dicevamo la volta scorsa nei rari momenti di lucidità che ho avuto durante la produzione scorsa. Questo vale in gran parte anche per tutta la tradizione dell'iconografia occidentale. L'arte sacra, anche nei quadri, l'arte di argomento sacro in realtà, è un'arte che anch'essa fa riferimento a un testo, anche se tratta di immagini svincolate dal testo, no? Io non, lo so che non dovrei fare l'esempio di Giuditta, ma quella mi viene in mente, ma facciamo l'annunciazione che è più semplice. Allora, uno guarda una annunciazione qualsiasi, o quella di Beato Angelico, o quella, ce ne sono talmente tante che non ricordo neanche, Piero l'ha fatta, non so se sì, pure Piero l'ha fatta, Piero della Francesca, insomma, una qualunque annunciazione, e uno guarda il quadro, lo guardava all'epoca dove stava, lo guarda oggi, nei libri non cambia molto. E implicitamente questo fa riferimento a un testo che è quello evangelico, okay? Poi dipende da come viene tradotto il testo evangelico, ma insomma, grosso modo la storia che si racconta, sì, perché fa parte di Vangeli. E più o meno la storia raccontata è chiara, sappiamo qual è, abbiamo una signora o signorina che si è appena sposata, vergine, e che è appena sposato, prima sposata, non mi ricordo, riceve la visita di un angelo, dice ma come chi sei, non lo so, bla bla, dice ah tu sarai un angelo, e tutta questa storia qua. Uno guarda il quadro, cioè c'è un testo implicito lì dietro, no? Diciamo quasi tutta l'arte, come dire, medievale è un'arte di questo tipo, è un'arte che fa implicitamente riferimento ad un testo. Quindi questa idea, questo rapporto delinea già comunque in tutti i casi un rapporto di sudditanza dell'immagine al testo. Quello che conta, quello che è importante è il testo. Ora questo però avviene perché la scrittura per tutta questa fase in qualche maniera, come dire, arriva già dopo un processo di filtraggio. Cioè la scrittura sono delle storie in qualche maniera esemplari. Questo è chiarissimo per quanto riguarda la scrittura sacra, insomma. Però anche quando nasce il romanzo, anche quando nasce nel 700, sì, fine 600, 700, cioè nel 600 in Francia, ci sono alcuni interessanti esempi di proto romanzo, la Princesse de Clèves per esempio, di Madame de Lafayette. Poi il 700 è l'epoca in cui nasce il romanzo, Inghilterra, Francia, dopo un po' arriva anche la Germania, l'Italia buona ultima perché già in quel periodo siamo messi male culturalmente. È un genere di scrittura diversa da quella, è una scrittura narrativa, racconta degli eventi di una vita quotidiana, della vita contemporanea, cosa che non era mai, diciamo, successa. Pensiamo a Pamela di Richardson. Pamela è uno dei primi esempi, anzi, gli storici della letteratura lo considerano il primo esempio di romanzo moderno. Fielding, Tom Jones, avete visto il film, il cinema. Barry Lyndon, non è un romanzo ma è un film, insomma, più o meno siamo lì. Allora, in realtà però anche nel momento in cui l'autore di romanzi nel 700 e poi nell'800 sceglie una vicenda particolare, prende una persona di fantasia, eccetera, costruisce una storia, e anche lì è una sorta di, cioè, c'è una specie di evento paradigmatico, insomma, dice io vi racconto questa storia perché la reputo e la ritengo rilevante per quello che capita in questa epoca, per capire. Allora, diciamo per esempio Pamela è la storia di una, si dice Pamela, non è che sbaglio, sì. C'è l'inglese. Io ho detto Pamela per tutta una vita, ma poi a un certo punto mi sono imbattuto in un anglista vero, non in un finto come me, che mi ha detto che siete Pamela. Allora poi ho detto Pamela, faccio bella più. Allora, vedo Pamela è la storia di una giovanetta inglese insidiata dal suo datore di lavoro, storia molto contemporanea, anche insomma, uno direbbe mobbing, ma all'epoca il termine non c'era ancora. Mobbing, povertà, insidiata dal suo datore di lavoro che che riesce a resistere, cioè che si nega, e attraverso questa continua negazione, un po' lunghetta perché il libro è abbastanza lungo, noiosissimo, mi dicono, io non l'ho mai letto, i soliti anglisti di cui mi avvalgo come fonte di alcune delle mie notizie mi dicono che è una roba noiosissima, infatti nessuno legge più adesso, però all'epoca è un grande successo. D'altra parte neanche i misteri di Udolfo di Anna Radcliffe nessuno se lo legge più oggi, però io me lo sono letto perché essendo una narrativa gotica ero più interessato, ed è di pochi decenni dopo Pamela, questo di fame, è la storia di una giovane, mi sembra, che faccia la cameriera, una roba così. Tutto il succo, diciamo, del libro è che diciamo, resistere alle sofferenze sessuali del proprio datore di lavoro funziona dal punto di vista sociale, perché poi il datore di lavoro, cioè, se non gliela dai subito, ma gliela dai dopo un bel po', e a certe condizioni, il datore di lavoro, insomma, non dico che si commuova, ma in qualche maniera viene, diciamo, costretto dalla forza e dal suo desiderio, dovrà essere meglio forse qua, perché non so stasera farsene altre 10, ma ci ha messa Pamela in testa, e quindi insomma alla fine Pamela riesce a farsi sposare, una roba carina, insomma, dell'epoca, diciamo, grazie, si fa così. Ecco, allora, da un certo punto di vista chiaramente cambiano diciamo, i codici semantico-letterari, è un genere diverso, eccetera. Però è pur sempre qualcosa che è una storia quotidiana che attraverso una scelta particolare dell'autore assurge, diciamo, a caso emblematico, se non vogliamo dire a paradigma che ci sembra eccessivo. L'ho fatta lunga perché se invece andiamo a prendere una gazzetta, andiamo a prendere un foglio stampato che ci dice Nantes 30 ottobre 1767, dice oggi signor, ha detto il diavolo so, il rappresentante del re di questa città ha ricevuto una rappresentanza di commercianti della zona perché 5 giorni prima la plebaglia aveva messo a fuoco la zona dei magazzini, allora voi capite che un testo di questo tipo è diverso da un romanzo. Cioè, mi racconta dei fatti successi lo stesso giorno, il giorno prima, 5 giorni prima, 10 giorni prima, me li racconta, me li rende disponibili su di uno strumento che tecnicamente è lo stesso del libro, cioè sono dei fogli a stampa, no? Però, no, come dire, abbiamo un'intenzionalità diversa. Un conto è raccontare delle storie, sia pure di finzione, di fiction, ma che vengono considerate in qualche maniera diciamo, emblematiche, degne di essere raccontate, e quindi il signor Richardson decide di raccontarmi la storia di Pamela, o Henry Fielding decide di raccontarmi la storia di Tom Jones, o si chiama l'altro, non mi ricordo più, vabbè, insomma, c'è la storia di questa signorina, Molly Flanders. Chi è Molly Flanders? Chi è? Sì, ma non ricordo l'autore. Cioè. Allora, Richardson nel primo caso, Fielding nel secondo. Va bene, facciamo Lauren Stern. Quando Lauren Stern decide di scrivere La vita di Tristram Shandy, che è un libro che se non avete letto, vi consigliate perché si muore dal ridere a 3 secoli di distanza, si muore dal ridere. 400 pagine di didattico. Ma non dico, cioè, non è certo, sono abituato alla comicità televisiva, forse no, però. Allora, è uno dei caposaldi del romanzo moderno, è scritto Shelley, perché è una sorta di metaromanzo, cioè una persona che vuole descrivere la storia della sua vita man mano che la vive, in qualche modo. Però siccome metà del libro passa che Tristram Shandy non è ancora nato perché si racconta la storia dei suoi genitori e dicono questa cosa così. Dopodiché poi arriva a metà del libro, nasce lui ed è lui che scrive, e a un certo punto dice accidenti, dice, ma non posso mai scrivere veramente tutta la storia della mia vita. Dice perché? Perché nel tempo che ci metto a scrivere quello che mi è successo un quarto d'ora prima, in realtà io sto già vivendo il quarto d'ora successivo, quindi come faccio a scrivere cosa succede? No, è una cosa carina perché insomma è un modo paradossale per sottolineare l'idea l'idea che la letteratura sia un modello, cioè che non sia qualcosa di... che non è possibile costruire un modello uno a uno della, diciamo, realtà, questo vuol dire. Però, adesso come lo dico io, non fa ridere per niente, come lo dice Laura Stern, si muore da ridere. Comunque, Tristram Shandy è uno dei, insomma, allora, abbiamo fatto gli esempi. Allora, in tutti questi casi, insomma, ogni volta che qualcuno scrive un, diciamo, romanzo, per quanto questo romanzo sia realistico, minuziosamente descrittivo, eccetera, c'è già una, come dire, operazione di passaggio dal reale a un modello del reale, di fatto. Anche Tristram Shandy, anzi, tanto più Tristram Shandy, che è una delle prime opere, per così dire, meta, diciamo, narrative, in cui oltre alla descrizione di eventi c'è anche una riflessione su come si scrivono gli eventi. La scrittura giornalistica, fin da quando nasce, esibisce un'intenzionalità diversa. La scrittura giornalistica non vuole costruire un modello di nulla, non prende delle storie particolari e quotidiane perché esse siano universalizzabili. Nel racconto, nell'articolo del giornalista, non c'è alcuna intenzione, anzi, c'è tutto il contrario. C'è una, a volte, esacerbata e risentita rivendicazione della particolarità. Io ti racconto oggi quello che è successo ieri, o l'altro ieri, o 5 giorni prima, insomma, il quotidiano delle cose si mette un po' prima di maturare, insomma, in un periodo in cui ancora le notizie viaggiano a dorso di cavallo o al massimo con il viaggiatore, è chiaro che non possiamo pretendere da un'epoca del genere la stessa rapidità che insomma, conosciamo noi oggi, però dal punto di vista dell'intenzione c'è quello. L'articolo del giornalista non pretende altro che di raccontare quello che è successo quel giorno stesso, il giorno prima, 2 giorni prima, 5 giorni prima, e di informarci, di dirci quello che è successo. Io vi racconto quello che è successo. Non sta a me, giornalista, mentre invece sta a me, romanziere, indirizzarvi verso il significato di quello che questa storia, che ha questa storia. Le storie dei giornali quotidiani non hanno nessun significato, sono la riproduzione, sembrerebbero essere, poi sappiamo bene che non è così, ma insomma, nell'intenzione sembrerebbero essere la riproduzione grezza, immediata, della realtà, o perlomeno di qualche cosa che è già, diciamo, successo. Allora, perché dico questo? A che cosa serve questo per noi? Perché dentro un sistema, allora, per certi versi uno la può pure chiamare narrativa, pure questo, no? Anche il giornale narra delle cose, no? Come il romanzo. Però la narrativa della, diciamo, letteratura, avendo l'ambizione implicita o esplicita di funzionare come modello, cioè di costruire un modello in qualche modo, non di tipo scientifico, diciamo, neanche di tipo, diciamo, sociologico, anche se c'è una componente cognitiva anche nel romanzo, come dire, utilizza la parola in un senso più vicino a quello dell'oralità, della parola orale. Apro una piccola parentesi. Non pensiamo che le società orali siano quelle in cui si parla di più. Le società orali sono quelle in cui si parla di meno. Siamo noi che parliamo come dei pazzi, noi che veniamo da una lunga tradizione di parola scritta. Nel momento in cui comincia la scrittura, e quindi l'essenziale, quello che noi riteniamo essenziale della conoscenza e passa nei libri, la parola parlata diventa disponibile per le cose non importanti, per la chiacchiera. Soltanto nelle civiltà della scrittura si chiacchiera, non in quelle orali. Nelle società orali non si chiacchiera, La parola parlata è un bene così prezioso, perché è quello che serve per la trasmissione della cultura, da una generazione all'altra, della cultura, delle conoscenze, dei modelli di comportamento, eccetera, che la si deve tenere sempre, la gran parte, tutti gli antropologi che sono andati a vivere, insomma, a visitare queste popolazioni, molti di loro, quasi tutti, ci raccontano stupiti di quanto poco parlino. Parlano solo quando si deve, quando è indispensabile, quando la parola parlata ha una rilevanza. Perché noi possiamo perché noi possiamo avere la televisione, la chiacchiera, i giornali, o i talk show, eccetera, eccetera? Perché abbiamo la scrittura e quindi sappiamo, abbiamo già uno strumento che filtra le cose e ci dice, poi ovviamente adesso fa ridere dire che il mercato librario esprima qualcosa di così fondamentale, però di fatto da un certo punto di vista è insomma così, ognuno, quindi diciamo, le società orali non hanno la stessa disinvoltura nei confronti della parola parlata che abbiamo noi. Da un certo punto di vista il giornale, nasce il giornale, la gazzetta, diciamo, l'uso della stampa come strumento informativo spicciolo dei fatti quotidiani, nasce in qualche maniera come una tendenziale riproduzione della chiacchiera, cioè della produzione orale corrente in una società della scrittura, eh? Se ripeto, non è che c'è sempre stata questa cosa. Quando la parola parlata è l'unico strumento culturale, di elaborazione culturale che tu hai a disposizione, ne fai un uso parco, discreto. Non la butti via così. Quando hai raddoppiato la parola parlata in quella scritta, puoi farne della parola parlata un uso più, diciamo, liberale e anche più dissennato e anche più considerato. Così ti muovi in sostanza da tutti i talk show televisivi, per dire, ma chissà cos'è. Si può fare perché tanto c'è questo, quindi si possono dire cazzate, eh? Cioè, come dire, libertà di dire cazzate è una cosa che ci siamo conquistati perché esiste la scrittura. Se no non potremmo dirle cazzate. L'uomo delle civiltà orali dice molte meno cazzate di me. Qualcuno la dice anche lui, naturalmente. È una irresistibile tendenza dell'umanità quella di dire anche allora. La nascita del giornale, della cronaca quotidiana, ed è qualcosa che ovviamente il giornale sostituisce strumenti precedenti, non è che questa cosa, cioè che il passaggio delle, diciamo, notizie fosse, che la funzione di rendere note, diciamo, notizie fosse qualcosa di ignoto alle società precedenti. Lo conoscevano anche le società precedenti, ma in tutte le culture, però, sapete, sull'esempio che si fa, c'è tanta storia, però, però nel momento in cui non c'è uno strumento continuo, quindi qualche cosa, e poi di tecnicamente riproducibile, insomma, per dire queste cose, anche nel racconto dei fatti quotidiani, in qualche modo, come facevano i cosiddetti cantastorie itineranti da un posto all'altro, anche lì c'era già un filtro, perché non essendoci la possibilità di raccontare tutto, perché quando uno deve dire lui le cose, poi deve fare qualche disegnino, fare le robe, dietro. C'era già un filtro, no? Nel momento in cui invece io ho a disposizione uno strumento che esce tendenzialmente tutti i giorni, certo che c'è un filtro pure lì, ma il filtro è molto più vasto, cioè passano molte, molte più cose. E soprattutto passano molte più cose che non sono. Adesso io tutte le cose che io vi dico, poco più bravi, devo dire stupide, noi oggi abbiamo la televisione che fa questa stessa funzione, ma insomma per 2 o 3 secoli la televisione non c'è stata e quindi erano i fogli, insomma, i quotidiani, le gazzette, eccetera. Allora, i primi fogli, le prime gazzette, eccetera, in Francia e in Inghilterra alla fine del XVII secolo, ovviamente nascono come sono pure colonne di testo. C'era proprio, c'è la scrittura, c'è qualcheduno che racconta degli eventi rilevanti, ma rilevanti congiunturalmente, non, cioè, anche i primi giornalisti sapevano già che quello che scrivevano sarebbe stato importante, interessante per 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, 7 giorni, 1 mese, 5 mesi, ma che dopo non gli avrebbe fatto più un cazzo a nessuno di cosa aveva scritto 5 mesi prima. Insomma, il fatto che 5 mesi prima nel dipartimento della Gironda un feroce criminale avesse assassinato moglie, figli, bambini, eccetera, ok, uno sta lì, pensa per 6 mesi, come il delitto di Perugia adesso, va bene, ok, tra un po' hanno beccato il tipo, tra un po' gli fanno il processo, eccetera, perché è chiuso del processo di Konya della signora Franzoni, cominciamo a non interessarcene già più adesso, insomma, ovviamente sono cose che hanno un certo. Allora, a lungo il giornale quindi è uno strumento scritto. Quando, dopo che nasce, dapprima il telegrafo, in una prima fase il telegrafo serve solo per mandare parole scritte, quindi non cambia molto, si accelerano le cose. Quando comincia, verso qualche decennio dopo la nascita del telegrafo, verso la fine dell'Ottocento, quando comincia a nascere una tecnica di riproduzione delle immagini, cioè delle fotografie, fino a che sono disegni, bisogna farli, Dio buono, è una roba lunga fare un disegno, insomma, per quanto uno sia, fare una faccia della signora Franzoni, di suo marito, dei suoi parenti, degli altri abitanti di Cogne, una ricostruzione fantastica della scena dell'assassinio, eccetera, poi ci vuole tempo. Quando comincio a fare le foto, vabbè, le foto, faccio le foto, non metto niente, per i tempi che avevo un sacco dove fare le foto, poi comincia. Però per qualche decennio, per parecchi decenni, la foto è, diciamo, restata uno strumento di formazione dell'immagine di difficile trasmissione, cioè c'aveva le stesse sigle che avevano, diciamo, i quadri, cioè devo prendere la foto, stampavo la foto, perché devo prendere la foto e trasportarla da una parte all'altra, se no nessuno la poteva vedere. Il grosso cambiamento tecnico e quindi poi culturale viene quando si cominciano a mettere a punto tramite il telegrafo degli strumenti di trasmissione non solo dei testi ma anche delle immagini. A quel punto, verso dopo il 1880, non ricordo gli anni precisi, vedete voi sulle cose, insomma, si cominciano a poter trasmettere per i giornali non soltanto testi ma anche immagini, anche fotografie. A quel punto, e qui viene il nodo, diciamo, concettuale, una immagine all'interno di una gazzetta, all'interno di un giornale, all'interno di uno strumento di divulgazione e di trasmissione delle notizie quotidiane, acquista, ha una funzione molto diversa da quella che ha l'immagine in un libro, in un romanzo. Io posso anche decidere di fare delle fotografie di fantasia per illustrare Robinson Crusoe, pagare un attore per truccarlo e traduzione, cioè come si fanno i film, insomma, e faccio pubblico Robinson Crusoe con una serie di foto. A parte che sarebbe buffo, no? Perché ci sembrerebbe strano, no? Che uno dice, come si può fare il disegno, perché quando il libro è comunque, il romanzo è comunque un oggetto di fantasia, no? E quindi dice, perché devo ricorrere alla foto che è uno strumento apparentemente di riproduzione della, diciamo, realtà? Comunque ci sono alcuni casi in cui anche questa cosa è stata fatta, in questo caso la foto acquista però una significazione diversa. In generale sono delle illustrazioni. l'illustrazione va bene. E, allora, è chiaro che in quel caso un conto invece diciamo, diverso è, dice, il papà sgozza la moglie, i figli, dico adesso faccio un esempio così perché è il caso da cui è un caso di cronaca del 600 francese da cui ha preso l'avvio Foucault per scrivere un libro, diciamo io Pierre Rivière avendo sgozzato mio figlio, non mi è rimasto in mente, vi dico così, ma insomma è un fatto di cronaca qualsiasi. Allora, mettiamo che c'è il tipo che piglia, ma cioè, diventa pazzo, sgozza la moglie e il figlio. Benissimo. Allora, siamo nel 600, io posso, nel 600, insomma, 600, io posso solo scrivere qualche cosa, scrivo un articolo in cui racconto questi fatti, e va bene. Io, lettore del giornale, faccio nei confronti del testo scritto esattamente quello che faccio nei confronti di qualunque altro testo, cioè leggo delle righe stampate e mi faccio una immagine mentale di questo terribile assassino, ognuno avrà la sua immagine diversa. Se invece sono alla fine dell'Ottocento e il giornale, oltre che offrirmi un adeguato racconto, come poteva fare anche due secoli prima però, del fatto di cronaca, cioè del contadino che impazzisce, sgozza la moglie, i figli, eccetera, in più vi posso anche far vedere una foto con la faccia di questo contadino, di questa persona, e magari, se sono particolarmente truce, anche un'inquadratura della moglie sgozzata e del bambino massacrato, e ve la metto sul giornale insieme alla cosa, inizialmente, dato che io ho una abitudine a considerare il testo prioritario e l'immagine accessoria, potrò anche considerare quelle immagini accessorie al testo, ma a mano che passa il tempo e questo strumento mi abitua a vedere tutti i giorni una immagine o più immagini di quel fatto che viene narrato, già in quella fase io automaticamente sposto la mia attenzione, certo che leggo il testo, ma l'immagine per la sua immediatezza e per la sua referenzialità, perché proclama di essere una riproduzione fedele di quel fatto di cronaca che viene diciamo, narrato, acquista a poco sempre più rilevanza e soprattutto acquista un'autonomia rispetto al testo che è più forte di quello che non fosse l'illustrazione tradizionale nel romanzo rispetto al testo. Ci siamo? Cioè, allora, la combinazione, cioè l'ampliamento di una tecnologia della stampa che consente di non solo stampare immagini, cosa che era di successo, stampare immagini sono disegnate, immagini artificiali, non che la foto non sia un'immagine artificiale, ma è un tipo di immagine che viene, si comincia a concepire come più referenziale di una illustrazione, no? E quindi va bene. Allora, da un lato tecnica, dall'altro tecnica di trasmissione dell'immagine. Allora, a quel punto l'immagine comincia ad acquistare una autonomia e una rilevanza semantica, conoscitiva e relazionale nell'ambito dello strumento stampato, cioè il testo comincia a essere detronizzato. Certamente tutto questo processo non va a conclusione, non si conclude nel giro di pochi diciamo decenni, deve aspettare un passo successivo che è quello della comparsa dell'immagine referenziale in movimento, della fotografia animata, cioè del cinema, e più ancora di uno strumento di diffusione di una immagine in tempo diciamo reale, istantanea e non indifferita come il cinema, che è la televisione. ma una volta che nasce uno strumento di diffusione di immagini e suoni, e marginalmente anche di testi, ma soltanto i corsi, diciamo, notturni, insomma, serali, non sa nessuno, mi fa vedere i testi per televisione, cioè in realtà, insomma, TV si sentono suoni, si guardano immagini, quello è principalmente il fatto. Allora, quello, come dire, configura la tappa per il momento finale di un processo nel quale l'immagine acquista dapprima una, come dire, autonomia, e secondariamente una predominanza addirittura nei confronti del testo. Certamente oggi io guardo il telegiornale, chi lo guarda, e sento l'accoppiata immagine testo, cioè un testo parlato, c'è qualcuno che parla, eccetera, ma di fatto quello che è più importante sono le immagini. Certamente sono delle immagini che io non posso capire, cioè il testo mi serve, però il testo e la come dire, parola parlata in televisione servono oggi prevalentemente per contestualizzare l'immagine più che non per, no? La contestualizzano, mi spiegano, come dire, facilitano la comprensione e il consumo e l'assimilazione di questa immagine, ma quello che conta davvero è, diciamo, l'immagine. Quindi, diciamo, il sistema dei mass media che ha una storia, che si, insomma, sviluppa, parte dalle prime gazzette, dai primi giornali del 600-700, e arriva sino alla maturazione nell'era televisiva, che nasce tra gli anni 50 e 60, la televisione tecnicamente nasce negli anni 20, però ci vuole un po' più di tempo che per la radio per far diventare la televisione, però quando alla fine arriva la, diciamo, tecnologia è affidabile, in grado di assicurare un broadcast, i capitali arrivano, qualcuno ci investe in qualche paese di stati, in qualche altro paese i privati, abbiamo da diversi, a quel punto il sistema dei mass media è tale per cui, cioè, diciamo, rivela che si deve prendere atto, insomma, che c'è stato, che c'è un ribaltamento totale, complessivo, dei rapporti fra la parola e l'immagine. Allora, questo ha una serie di conseguenze non soltanto, come dire, sintattiche e semantiche, cioè puramente linguistiche sul piano del modo in cui questo sistema di trasmissione e di composizione, diciamo, di messaggi o di testi o di ipertesti, chiamiamoli come volete, insomma, di accrocchi di immagine e insomma, suono, diciamo, sono tre le componenti fondamentali, cioè quattro forse, l'immagine fissa, l'immagine in movimento, il testo parlato, il testo scritto, grosso modo, di tutti e quattro questi elementi compongono in qualche maniera lo strumento comunicativo dei mass media. Quindi non soltanto c'è evidentemente una, quindi, innovazione linguistica, chiamiamola, quindi una sorta di nuova alchimia, di nuova composizione fra testi, immagini, eccetera, ma ovviamente c'è anche una serie di effetti sociali. Quando diciamo effetti sociali, poi chiudiamo qua perché poi San Paolo un attimo, quando diciamo effetti sociali non dobbiamo pensare che ci sia meccanicamente qualche cosa che funziona come causa e qualche altra che funziona come effetto. Non è che i mass media siano la causa di certi progetti sociali o al contrario che i mass media siano l'effetto di certi. Cioè, il fatto sociale, come lo intendeva Durkheim, uno dei fondatori della sociologia, è un fatto globale, c'è un fatto, diciamo, sociale. Questo fatto sociale ha diverse componenti al suo interno. Una componente comunicativa, una componente cognitiva, una componente comportamentale, una componente comunicativa, una componente in senso più ampio, diciamo, relazionale. è difficile dire che cosa sia causa di altro, insomma, è come la storia cioè, perché è nato il capitalismo? Allora, diceva Weber, perché nell'Europa centrale è nata l'etica protestante, va bene, ok, che è diversa dall'etica cattolica. Però uno potrebbe ribaltare la cosa e dire, ma guarda, che in realtà è che l'etica protestante è nata perché stava nascendo qualcosa che era lo scapitalismo. E quindi, come facciamo a dire, dopo che abbiamo separato noi, come esseri umani, astrattamente diverse componenti di un fenomeno sociale, a dire quale è una causa e quale è l'effetto? Anche la cosa che nell'Ottocento sembrò così rivoluzionaria di Marx e che era giusta, cioè di considerare la base economica di una società come l'elemento fondamentale strutturale, è vera fino a un certo punto, cioè è vera e non è vera, perché in realtà anche la base strutturale viene poi influenzata da cose che più che Marx, il marxismo successivo, chiamò sovrastrutturali, cioè il terreno dell'immaginario. A volte è il terreno dell'immaginario che influisce addirittura su dei modi di fare Quindi in qualche l'economia. modo i mass media sono l'astrazione del sociale. Sono una delle componenti del processo sociale di formazione della piena modernità. Dico io, è difficile dire se i mass media siano l'effetto, cioè siano degli effetti di una causa, diciamo, economica, sociale, eccetera, eccetera, o se a loro volta non siano cause di una parte di questi processi. Il processo sociale è un fatto complesso, fatto di tante componenti intercollegate tra loro, e spesso sono componenti che noi esseri umani, per forza di cose, giustamente dobbiamo distinguere per poter descrivere un certo fenomeno, dobbiamo analizzarlo e dire sul piano economico le cose vanno così, sul piano sociale così, sul piano... Però poi nella, come dire, esperienza nostra, il fatto, diciamo, sociale è un fatto globale, è un fatto generale che si impone, che ha tutte queste componenti. È difficile dire che cosa sia causa, che cosa sia effetto. Da un certo punto di vista si può dire che i mass media sono stati obiettivamente uno degli indici più rilevanti della, come dire, modernità, ma certo al pari di altri. Se io devo descrivere, se io mi metto dal punto di vista dell'economia, è chiaro che posso valutare il ruolo di causa dei mass media solo, come dire, in maniera limitata. I mass media avranno avuto certamente anche un effetto su certi modi di sviluppare l'economia, però non saranno stati, pensiamo, determinanti nello sviluppare certe molle dell'economia. Però in altri casi, cioè, quindi dipende dal punto di vista analitico che noi scegliamo come momento, insomma, il fatto di chiamare causa qualcosa, effetto qualche altra cosa. Spesso noi chiamiamo causa-effetto, che la causalità ci sembra sulla scorta della, come dire, mitologia scientifica e della scienza come una delle cose improbabili. Cioè, in realtà non è così, cioè, in realtà spesso noi non sappiamo bene che cosa sia la causa e cosa sia l'effetto. Certo, ci sono fatti semplici in cui, se io prendo un martello e spacco queste casse, questo altoparlante, posso dire che la causa è la smartellata e che, diciamo, l'effetto è la scomposizione violenta di questo manufatto in alcune componenti più semplici ma non più utilizzabili, cioè dei pezzi di cassa. Allora lì, vabbè, causa-effetto è chiaro. Ma se perché questo è un processo semplice, se spacco la testa a uno e questo muore, è chiaro qual è la causa e qual è l'effetto. Ma già se la mamma mi sgrida e io piango, perché la mamma mi ha sgridato, chi lo sa se la causa del mio pianto è propriamente la sgridata della mamma, o se dietro a questa cosa non ci sono una serie di altri avvenimenti, di altre cose. Chi lo sa se la caduta del muro di Berlino nell'89 è stata l'effetto della diffusione dei mass media, del fatto della nascita delle TV satellitari, per dire, eh? E quindi il fatto che sempre più gente all'est, che poi erano pochi, insomma, riceveva le televisioni dell'Ovest. Chissà se l'effetto, cioè chissà se la migrazione degli albanesi nel nostro paese o dei rumeni adesso, facciamo degli albanesi che è più semplice, sia l'effetto del fatto che la televisione italiana grava in Albania. Certo che sono tutte cose che dice, sono delle componenti, diciamo, rilevanti per capire il fenomeno, però bisogna darci cauti a dire questa è la causa, quest'altro è l'effetto. Perché quando i processi sono suggettivamente complessi, hanno una pluralità di cause e soprattutto sono più che altro prevalentemente dei processi interrelati tra loro, in cui io posso parlare di causa e di effetto soltanto se analizzo, schematizzo, quindi isolo certi tratti pertinenti di una. Certo, per fare della descrizione, in realtà in genere per descrivere linguisticamente qualunque cosa io faccio sempre questa operazione. Astraggo a alcune delle caratteristiche di un certo processo, elenco queste caratteristiche a tratti pertinenti, dico questo è pertinente e questo no. Una volta che ho stabilito la pertinenza ho il mio modello, ho il modello linguistico della realtà. Se io vi racconto un incidente stradale che ho visto ieri, faccio già una con le operazioni di questo tipo, qualunque descrizione che la faccio io che ve la facciano altri, è il risultato di un processo di astrazione. A livello sensoriale, già con la vista io ho fatto una. Cioè già la mia vista inconsciamente ha già, diciamo, stabilito delle priorità, quindi ha già estratto alcuni dati, ha già estratto alcune particolari configurazioni e le ha considerate pertinenti, ed è quello che io mi ricordo di quello che ho visto di una certa scena. Poi successivamente il mio software mentale stabilisce correlazioni, cause, eccetera, e quindi fa in modo che io racconto le cose in un certo modo. Voi tutti sapete, non, vuol dire, non occorre andare a vedere Rashomon no? Quel film, il film di Kurosawa nel quale uno stesso evento, cioè la violenza sessuale di alcune persone su una donna in un bosco, viene raccontata da sette punti di vista diversi e sono sette storie diverse, sette storie, pure con gli stessi. Ma voglio dire, non occorre quello, non occorre. O se voi andate e fate sull'esempio, qualcuno che vede appunto un incidente d'auto, i racconti dei diversi protagonisti differiscono l'uno dalle altre cose, se no non esisterebbero i tribunali e gli avvocati morirebbero di fame, ma gli avvocati non muoiono di fame esattamente perché c'è questa pluralità di punti di vista e quindi quando io devo ricostruire la cosa e per forza di cose mi trovo poi a dover mediare socialmente che cosa devo mostrare realmente pertinente e cosa no, insomma è una questione di decisione sociale, non ha nulla a che fare con una presunta oggettività, cioè, l'oggettività è una sorta di feticcio che spesso viene inseguito, per questo ovviamente non vuol dire che non debba. La verità è un conto, ovviamente la verità esiste, però anche essa è un processo sociale. Quello che non posso dire è che esista una realtà oggettiva, ingenua, uguale per tutti, eccetera. Non è così, non è così. C'è una grande parte di intersezione tra le singole realtà, diciamo, soggettive, ed è quello che conveniamo più o meno di chiamare realtà oggettiva, ma la realtà oggettiva è in realtà il risultato di un processo di intersoggettivazione. È la intersoggettività che conta, non l'oggettività in quanto tale. Questo è quello vagamente che ci ha insegnato la fenomenologia. Quindi questo è una cosa di metodo che vi dico. La realtà per noi, per ogni essere vivente, in particolare per gli esseri umani, ma in questo per qualsiasi animale, la realtà è un insieme di dati sensoriali, cioè un insieme di modificazioni dell'organismo vivente, dell'ameba, dello spardiero, della rana, qualsiasi animale, qualsiasi essere vivente, diciamo che è un animale, per le piante è un po' complicato, ma insomma, per gli esseri, tutti gli animali che hanno dei sistemi più o meno complessi di registrazione sensoriale, cioè che cosa sono i sensi? Sono dei meccanismi delle scatole nere di modificazione dell'organismo in relazione a qualcosa che avviene fuori di esso. I nostri sensi sono questo, quello che noi poi. Questo che cosa implica? Questo implica che per forza di cose, per potersi orientare in questo ambiente, in questo mondo, ogni essere vivente deve avere a modo suo la convinzione che questa, diciamo, che l'insieme delle modificazioni sensoriali create dentro di lui, dentro di sé, dentro questo, diciamo, che avvengono dentro questo, diciamo, organismo, siano riferite a qualcosa di, diciamo, esterno che questo essere vivente considera la, diciamo, realtà. Allora, se noi parliamo di noi esseri umani, perché noi abbiamo, oltre oltre a questi processi, come dire, basilari, meccanici, irriflessi, abbiamo in più lo strumento linguistico che ci consente di descrivere, quindi di creare un secondo livello di astrazione sui nostri dati sensoriali, ma già i dati sensoriali sono un livello di astrazione. Se tu misuri tutto l'insieme dei dati diciamo fisici diciamo, di questa stanza, luci, forme, colori, temperature, forze statiche, forze dinamiche, tu hai un insieme di dati di cui ogni essere vivente presente in questa stanza non avrà mai né piena coscienza e neanche piena conoscenza di tutti questi dati. A noi esseri umani, per esempio, gli esseri umani, noi camminiamo qua e non abbiamo bisogno di, per esempio, avere una conoscenza di come si scaricano le componenti dei pesi, delle masse di questa stanza, delle mura di questa stanza. Non ce ne frega nulla, perché noi viviamo, come dire, viviamo nella. Certamente nel momento in cui, prima del corna, questo pavimento crollasse, noi ci trovassimo un piano di sotto, probabilmente diciamo, cazzo, se avessi saputo prima, se avessi dato un po' di statica e se avessi capito che qua c'è questa stanza stava per crollare. Ma noi, insomma, viviamo nella fiducia più o meno ingenua che la stanza non crolli, cioè che i tipi l'abbiano costruita bene e siamo tranquilli, no? Un altro essere vivente, magari, che non ha. Magari lui invece ha degli strumenti di registrazione che. Faccio un'ipotesi, insomma, no? Sente, capisce, capisce non nel senso di, diciamo, coscienza, ma il suo organismo registra delle cose. Ma facciamo un esempio banale. Dentro questa stanza ci sono un sacco di radiazioni elettromagnetiche, ok? Noi di quali di queste radiazioni siamo, virgolette, coscienti? Cioè quali registriamo? Quelle estremamente limitate di uno spettro che è lo spettro della luce visibile, l'infrarosso e l'ultravioletto non ce ne chiamano cazzo, non sappiamo niente. Nel suono idem, noi percepiamo le vibrazioni dell'aria tra 16 Hz all'incirca e 20.000 Hz. Se con dentro c'è un cane, il cane percepisce le vibrazioni al di sotto dei 16 Hz, cioè gli infrasuoni, o quelle al di sotto dei 20.000, che noi non siamo in grado di percepire. Allora, la realtà del cane è diversa dalla mia, perché la realtà del cane comprende una serie di vibrazioni, per esempio sonore, che io e te e tutti noi non percepiamo. Quindi già l'apparato sensoriale di qualunque organismo è uno strumento di astrazione, perché considera non le considera come mente, ma il suo corpo considera pertinente pertinenti certe cose e non pertinenti certe altre. Per gli esseri umani le vibrazioni sotto i 16 Hz non sono pertinenti, quelle sopra i 20.000 Hz non sono pertinenti, sono pertinenti quelle tra i 16 e i 20.000 Hz. Sono pertinenti le radiazioni nelle onde di compressione, diciamo, nelle onde meccaniche, diciamo, dell'aria. La radiazione elettromagnetica sono pertinenti quelle del range visibile, che non mi chiedete perché non mi ricordo la più piccola e la più alta tra le frequenze, ma è solo una roba piccolina, sono una roba piccola piccola. Lo spettro elettromagnetico è lungo, ma siccome non c'è gesso non posso fare di pegno. È molto ampio, luce visibile. Questo è già un'astrazione, vuol dire che il nostro corpo fa astrazione, i nostri occhi fanno astrazione dalla gran parte della radiazione elettromagnetica, e per fortuna probabilmente, perché se no non gli basterebbe la quantità di coni, bastoncelli e altre schifezze che abbiamo sulla retina per poter valutare e descrivere dentro la nostra mente. Cioè, okay. Allora, quindi già il livello della sensorialità non è una registrazione banalmente della realtà. Cos'è la realtà? È quella cosa resa visibile dentro lo spettro della luce visibile? E perché dovrebbe essere quella? Cioè, perché noi siamo esseri umani, quindi siamo, no? Se ci fosse un altro essere vivente capace di cogliere l'infrarosso o l'ultravioletto, quando Paolo Rosa usa la camera agli infrarossi, quindi usa uno strumento tecnico che gli permette di registrare e di tradurre nello spettro del visibile quello che accade nello spettro dell'invisibile, in particolare dell'infrarosso, allora se quella macchina, se la telecamera ad infrarossi fosse viva, cioè se fossero gli occhi di un essere vivente là su quello, quell'essere vivente vivrebbe dentro una realtà diversa dalla nostra, perché lui vedrebbe l'infrarosso. Quindi già l'apparato sensoriale degli esseri viventi configura un processo di pertinentizzazione, cioè di astrazione. Dice, certi dati non sono pertinenti, certi altri sono pertinenti. Il linguaggio, in quanto strumento di secondo ordine, di secondo grado, non dico superiore, ma insomma diverso, che si basa sui dati sensoriali e ce ne offre un equivalente su un terreno diverso, costruisce una seconda astrazione, cioè sulla base dei dati sensoriali ci sono altre cose che il linguaggio, per forza di cose, deve reputare non pertinenti e non può dire, no? Perché il linguaggio non è il pensiero, non è il flusso del contenuto mentale. Il contenuto mentale è molto più ricco del linguaggio, ma in quanto tale è inesprimibile. Cioè, è una bella sega dire che il linguaggio, cioè, come sarebbe bello se tutti fossimo telepati, sarebbe la morte, perché la telepatia, cioè l'accesso istantaneo anche al nostro stesso contenuto mentale, cioè già noi lo filtriamo il nostro contenuto mentale, lo filtriamo inconsciamente anche se non parliamo. Peggio ancora se fossimo messi in contatto immediato con, no, con l'intero flusso. Quindi già c'è un secondo livello. Quindi il linguaggio. Cioè, questa è quella che noi chiamiamo realtà. In realtà noi chiamiamo realtà una astrazione, sempre, non possiamo fare che così, non potrebbe essere che è la stessa roba per cui Kant diceva che ci sono solo fenomeni, in realtà la realtà, come dice il cosiddetto noumeno, è, diciamo, inconoscibile, certo, è inconoscibile, perché noi potremmo anche fare un passo in più e dire non che non ci sia, perché ovviamente sappiamo che c'è, ma non solo inconoscibile, ma inaccessibile e. Aggiungiamo noi per fortuna che è così, cioè perché non è possibile un fenomeno di relazione tra organismi e ambiente, tra loro, che non sia basato su una certa selezione. Se non si selezionano dei tratti pertinenti, c'è il caos completo, insomma, non si arriva a un tubo. Mi sono spiegato? Sì, facciamo pausa perché devo fare un po' di...